Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il caso dell'operazione contestata a un Novax, dopo le minacce ricevute sui social, si autosospende il primario di cardiochirurgia di Cattinara. Transiti in aumento e doppia cifra all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, che si appresta a varare un importante piano di nuovi investimenti. Anche nelle chiese della regione sono iniziate le celebrazioni del giubileo, con un pellegrinaggio verso le cattedrali. Sutrio si conferma come una delle capitali dei presepi regionali, con ben 24 installazioni nei vari borghi del paese. Periodo più che positivo per il turismo sulle nostre montagne. A Piancavallo ieri oltre 5.000 presenze, ma resta la carenza dei parcheggi. Lo sport allo Stadio Friuli, l'Udinese non riesce ad andare oltre un pareggio per 2-2 contro un non irresistibile Torino, che sa rimontare ben due volte il risultato. Basket, Trieste sconfitta in A1 dalla Reyer Venezia, in A2 vincono invece Udine e Cividale. Volley, nuova vittoria per la Tinet Prata, ieri sera in casa ha battuto Portoviro per 3-1. Alle 7.19 e 15 secondi di lunedì 30 dicembre un cordiale buongiorno da Andrea Marussi, Germando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto la pagina del tempo, il cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle 6, Trieste 6 gradi, Udine meno 5 decimi di grado, Pordenone e Gorizia meno 1 grado e mezzo, Forni di Sopra 4 gradi e 5 decimi, Piancavallo 0 gradi, Tolmezzo meno 5 decimi di grado, Sappada meno 3 e Tarvisia meno 6. In quota sullo Zoncolan e sul Lussari 5 gradi, tornando sulla costa grado 5 e Lignano 3 gradi. Le previsioni per oggi: cielo sereno su tutta la regione con inversioni termiche in montagna e zero termico a circa 2600 metri. Possibili nebbie sulle zone di costa più vicine al confine con il Veneto. Ha una vasta eco la vicenda del primario di cardiochirurgia dell'ospedale triestino di Cattinara, Enzo Mazzaro, oggetto di violenti attacchi e minacce, anche di morte, seguito al post di un paziente che sosteneva di essere stato cancellato dalle liste di attesa per essere operato perché non vaccinato. Affermazione smentita da Asugi e dai documenti sanitari. Il primario ha sporto denuncia. La mia famiglia è terrorizzata, ha detto. Messaggi di solidarietà professionisti sono arrivati dal mondo politico, con il presidente Federica in testa, oltre che da colleghi ed esponenti della sanità regionale e non solo. Il dottor Enzo Mazzaro, primario di cardiochirurgia all'ospedale triestino di Cattinara, è semplicemente in ferie già programmate. Nessuna dimissione e nessuna autosospensione di un grandissimo professionista che passa il suo tempo in sala operatoria a salvare vite umane. La precisazione del direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, fa chiarezza sulle conseguenze del caso del paziente cardiopatico che ha rifiutato l'intervento chirurgico consigliato per una cardiopatia valvolare e i vaccini necessari a causa di una grave immunodepressione. Era stato escluso dalla lista di attesa per l'intervento, programmato per gennaio, con una lettera timbrata in calce dal dottor Mazzaro, che però riportava solo il rifiuto ai vaccini e non quello determinante a farsi operare. Asugi, sottolinea il DG Poggiana, non consentirà che una lettera, seppur superficiale, scritta male, peraltro non dal dottor Mazzaro, possa gettare una qualsiasi ombra sul suo operato e sulle sue competenze. Già, perché una volta arrivata la ribalta della cronaca con la pubblicazione sul quotidiano La Verità, la vicenda ha provocato un'ondata di minacce Novax al medico e alla sua famiglia, tanto da indurre il dottor Mazzaro a denunciare tutto alle forze dell'ordine. In maniera umanamente comprensibile, questo clima lo ha indotto a farsi da parte, commenta Gianfranco Sinagra, direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare di Asugi, prefigurando qualcosa di più delle semplici ferie. Scenario smentito nuovamente dal direttore generale Poggiana di quella che sarebbe, usando le parole del professor Sinagra, una grave perdita per i malati e per l'organizzazione sanitaria. Il caso è diventato politico. Il presidente della regione Fedriga ha espresso la propria solidarietà al dottor Mazzaro, colpito, secondo il governatore, da una campagna d'odio basata su falsità. Fratelli d'Italia ha invece annunciato un'interrogazione al ministro Schillaci, mentre dal PD l'ex governatrice Serracchiani sottolinea come questi episodi siano frutto di anni di attacchi alla scienza. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Capodanno con i voli in arrivo e soprattutto in partenza verso nuove destinazioni conferma le ottime performance di Trieste Airport, che quest'anno ha superato quota 1.300.000 passeggeri. In attesa di nuovi investimenti e 5 nuove rotte dal prossimo anno, come ha raccontato l'amministratore delegato dell'aeroporto Marco Consalvo. Lo scorso anno avevamo fatto il record di passeggeri di 930.000, quest'anno superiamo 1.300.000 passeggeri con una crescita del 41%. Continua a macinare record il Trieste Airport, numeri che dimostrano l'interesse crescente da parte della clientela per uno scalo aeroportuale che appena nel 2019 registrava 780.000 transiti, praticamente la metà di oggi. E a confermare il nuovo trend sono le affollatissime partenze e i numerosi arrivi in queste giornate a ridosso del Capodanno. Noi abbiamo aspettato degli amici che sono arrivati da Roma. Per passare il Capodanno insieme. Esattamente, per fare un po' di festa. Destinazione? Vicino Lecce, Torre Paduli per la precisione. E viene da dove? Da Malta. Andiamo a sciare, se c'è neve. E per il 2025 si punta a crescere ancora. Sentiamo di nuovo Marco Consalvo. Noi stimiamo ad oggi una crescita di un ulteriore 20-25%. La prossima da marzo, da fine marzo, e introduciamo 5 nuovi collegamenti come Stoccolma, Praga, Lamezia Terme con un volo aggiuntivo domestico, poi ci sarà il Rotterdam e il Bucarest che però è già partito a novembre del 2024 e quindi arriviamo a 27 destinazioni. In arrivo anche nuovi investimenti. 30 milioni di euro, di cui 15 milioni li andremo a realizzare nel 2025, che riguardano soprattutto l'intermodalità con l'introduzione di una pista ciclabile che sarà un po' uno snodo tra le ciclovie regionali. L'altro segmento di investimento è la sostenibilità ambientale, l'azzeramento delle emissioni della CO2 al 2027. Ronchi dei legionari, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Due pagine di cronaca. Alle 23 di ieri sera alla Marina San Giusto di Trieste un irlandese di 41 anni, forse in preda ai fumi dell'alcol, mentre tentava di fare la proposta di matrimonio alla futura moglie, è caduto in acqua. È stato soccorso dai vigili del fuoco e dalla guardia costiera. I sanitari del 118 hanno provveduto a stabilizzare le sue condizioni di salute per un principio di ipotermia. È stato ricoverato a Cattinara per accertamenti. E tra le 11 e le 12 di ieri la stazione del soccorso alpino di Maniago è intervenuta con 5 tecnici assieme ai vigili del fuoco e all'elisoccorso per una chiamata arrivata al NUE che rilevava un malore con conseguente caduta per un uomo del maniaghese sulla settantina. La persona si trovava assieme ad altri a fare una passeggiata in località Castello quando si è sentito male, cadendo a terra da un boschetto in direzione del prato sottostante. L'uomo è stato recuperato a bordo dell'elisoccorso con il varicello, portato all'ospedale di Udine, non è in pericolo di vita. Ieri in tutte le cattedrali e concattedrali della regione i vescovi diocesani hanno celebrato la Santa Eucaristia per la solenne apertura dell'anno giubilare, così come stabilito da Papa Francesco, che ha previsto un pellegrinaggio da una chiesa verso la cattedrale in segno di un cammino di speranza. La solenne apertura dell'anno giubilare ordinario del 2025, così come indicato nella bolla di indizione stabilita da Papa Francesco, a Trieste ha visto il pellegrinaggio di moltissimi fedeli iniziare nel primo pomeriggio nella chiesa di Sant'Apollinare. Dopo l'ascolto del Vangelo e di un momento di preghiera, il vescovo, Monsignor Enrico Trevisi, e il suo predecessore, Monsignor Giampaolo Crepaldi, si sono recati per la celebrazione eucaristica nella Cattedrale Giuliana, in un pellegrinaggio guidato dal Crocifisso dei Battuti del XIII secolo, che rimarrà esposto per tutto l'anno giubilare accanto all'altare maggiore di San Giusto. Prima della Santa Messa, Monsignor Trevisi si è fermato davanti al battistero di San Giovanni e benedetto l'acqua, aspergendo poi i fedeli. Nella sua omelia sono state ricordate le difficoltà quotidiane, dalla carenza del lavoro ai problemi dell'accoglienza, e sottolineate parole di speranza. A Udine il pellegrinaggio è partito dall'oratorio della Purità in Piazza del Duomo e si è sottolineato un augurio di pace e riconciliazione espresso dall'arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba, mentre a Pordenone il vescovo Giuseppe Pellegrini ha evidenziato l'amore di Dio e la speranza di pace. La speranza è stata invocata anche a Gorizia dall'arcivescovo Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, che nel corso del pellegrinaggio è passato davanti al carcere a somiglianza dell'apertura del Papa della seconda porta santa nel carcere di Rebibbia a Roma. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Sutrio è tornata la rassegna Borghi e Presepi, oltre 100 quelli realizzati prevalentemente in legno, lungo un percorso fatto di cortili, loggiati e cantine delle case più caratteristiche della bella località carnica. Una tradizione che si rinnova per la felicità di adulti e soprattutto bambini. Sutrio, alle pendici dello Zoncolano, è il paese presepe per definizione, con la natività rappresentata un po' ovunque, rigorosamente in legno. 24 luoghi da visitare, con la possibilità di vedere da vicino il lavoro degli intagliatori, artisti che con precisione costruiscono le statuette, un mestiere che si tramanda di generazione in generazione. Isaia Moro, scultore. Da chi hai imparato? Da mio fratello, abbiamo fatto dei corsi di intaglio 30 anni fa e poi piano piano mi sono fatto un po' da solo, insomma. Ma qual è il segreto per un presepe perfetto? Lorenzo Del Negro, scultore. Passione, cuore e poi camminare nel bosco anche alla raccolta e alla ricerca del muschio quasi perfetto, no? Così magari essiccandolo nel momento giusto c'ha una durata superiore del comune. Il paese celebrerà i presepi fino all'Epifania, dove logicamente arriveranno i re magi, un'occasione per conoscere le magie del paese. Noi arriviamo da Aiello, che è vicino a Palmanova, e il bello dell'iniziativa è vedere come si può valorizzare un paese che ha una bellezza incredibile, però bisogna saperla scoprire. Tra le realizzazioni anche 4 sculture in legno realizzate da 3 professionisti, ospiti del piano comunale Residenze Artistiche, arricchiranno l'arredo urbano sottolineando ulteriormente il legame del paese con la lavorazione del materiale, che ha avuto il suo culmine nel 2022 con la realizzazione del presepe esposto in piazza San Pietro a Roma e che ora si può ammirare sotto il municipio. In primavera, sempre a Sutrio, ripartirà il laboratorio didattico del legno, attivo per tutto il Novecento e che per decenni ha richiamato giovani da tutta la Valle del Put, ma anche da quelle limitrofe. Un progetto dedicato ai ragazzi fino ai 13 anni con una falegnameria, una xiloteca e spazi dove imparare a dipingere e a decorare il legno. Sutrio, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Continua intanto il nostro viaggio nei poli sciistici della regione. Ieri si sono registrati oltre 23.000 sciatori sulle piste delle 6 località del Friuli Venezia Giulia. Siamo andati a Piancavallo, da dove si può ammirare anche un insolito panorama. Sci alpino vista mare a Piancavallo. Per scattare una foto o fare un selfie originale, la meta più gettonata degli sciatori è quella del rifugio Val dei Sas a 1800 metri di quota, da dove si può ammirare il mare Adriatico illuminato dal sole. Un contesto rarissimo per una località sciistica dell'arco alpino. Una cosa che offre solo Piancavallo, abbiamo sciato in varie località e fortunatamente questo panorama qui ce l'abbiamo. Oltre 5.000 le presenze sulle piste di Piancavallo nell'ultima domenica dell'anno, con tutti gli impianti di risalita funzionanti e l'80% delle piste aperte, 40% in più di ski pass venduti rispetto alla scorsa stagione. Andrea Capovilla, responsabile di promoturismo FVG di Piancavallo. Stiamo registrando un'importante crescita e presenza di sciatori sia dalla Slovenia, Croazia e da tutto il Triveneto, stanziali e pendolari. Sold out le lezioni da parte di un centinaio di maestri di sci impegnati soprattutto con le nuove generazioni, ma non solo. Pio Boccolini, della scuola di sci di Piancavallo. Anche gli adulti hanno capito che avere una base di insegnamento tecnico aiuta a divertirsi di più rischiando di meno. Buone le presenze sull'anello del fondo, aperto parzialmente. Mi piace il movimento e quindi è proprio liberatorio per me, è un modo per scaricare e riacquisire energie. Preso d'assalto il parco giochi di Nevelandia con 1300 ingressi staccati, un'area per i più piccoli attrezzata con giochi, tappeti mobili e bob. I bambini si divertono, i genitori anche sono in tranquillità perché possono vedere i bambini, nel frattempo stanno qui anche a bere qualcosa e tutto recintato. Ottime le prospettive di stagione sul fronte delle presenze alberghiere. Ipazio Ciardo, della rete d'impresa di Piancavallo. Sta andando benissimo, gli alberghi sono full, a dire la verità fino al 20 di marzo gli alberghi sono a completo. Unica nota stonata della giornata, il problema dei parcheggi e della viabilità interna a Piancavallo. Non basta l'impegno della polizia locale per risolvere una criticità nota da tempo. Piancavallo, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. 11 cani sequestrati per maltrattamenti ed assegnati in custodia all'associazione di volontariato La Cuccia hanno trovato una nuova prospettiva di vita. Le famiglie che li avevano accolti temporaneamente in prova sono tornate al canile di Lucinico per firmare l'affido definitivo. Il 24 aprile 2021 la polizia fermava al valico goriziano di Sant'Andrea un furgone con 36 cani che evidenziavano condizioni di prolungato maltrattamento. 13 di questi venivano affidati all'associazione La Cuccia. Parallelamente la Procura della Repubblica apriva un percorso investigativo da cui è emerso che i cani erano stati allevati in Serbia con metodi coercitivi ed erano destinati a cacciatori del sud Italia per attività venatorie. Con la conclusione dell'iter giudiziario, le famiglie che li avevano accolti temporaneamente in prova hanno finalmente ottenuto l'affido definitivo. Sono 5 setter, 3 segugi Posavac, 2 pointer e un breton. La presidente dell'associazione La Cuccia, Laura Grassi. Io li definisco i cani fantasma. Fantasma perché? Perché non sono tracciati, non hanno un microchip collegato a nessuno. Si tratta di un traffico che coinvolge più o meno 40 cani ogni 2-3 settimane provenienti da questi paesi e destinati a qualche allevamento italiano. Ognuno di loro ha un valore circa di 3.000 euro. Questi cani hanno avuto giustizia, ci sono voluti 3 anni di indagini per passare da affido temporaneo ad affido definitivo. Di solito in canile non funziona così, non durano 3 anni gli affidi temporanei, durano le settimane che serve per conoscersi a vicenda cane e padrone. Io invito chiunque vede situazioni di maltrattamento, di maldetenzione, a segnalarcele. Sentiamo ora alcuni affidatari. Sono venuto in canile, lei mi è venuta contro, cioè lei mi ha scelto e io... adesso è mia. È sempre stato bravo anche da piccolo, perché c'ha un buon naso, il riporto, è nato per andare a caccia, insomma. Queste cagnoline, ho visto che era un'adozione di coppia, è che questi cani, prendere due cani in una volta sola è una cosa più impegnativa. Si chiamano Luce e Vita, le ho trovate con questi nomi, e veramente hanno portato luce e vita all'interno della nostra famiglia. Lucinico, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 7.34 una pagina di cultura, Val Tramontina Illustrazione, un connubio che cresce di anno in anno. Per lanciare la terza edizione di Ciao da Tramonti, che si terrà nel 2025 come da consuetudine in maggio, l'associazione Cemonte Creazioni Indigeste hanno organizzato una mostra del vignettista Michael Mirko, già presidente di giuria del concorso per giovani illustratori di quest'anno. L'esposizione alla Casa della Conoscenza di Tramonti di Sotto presenta in allestimento con i lavori dell'artista marchigiano, le sue iconiche vignette su sfondo rosso con protagonisti gli scarabocchi che offrono battute fulminanti, ciniche, spietate sul genere umano, presentate in un percorso intitolato sarcasticamente È felice anno nuovo. La mostra a ingresso libero resterà aperta fino al 6 gennaio. E siamo allo sport, il calcio, tifosi friulani senza il regalo di fine anno. L'Udinese al Friuli si fa rimontare ben 2 volte dal Torino e chiude con un pareggio per 2-2. Soltanto un pareggio come regalo di fine anno per i tifosi friulani. L'Udinese spreca il doppio vantaggio contro un Torino affamato di punti che mette a nudo le incertezze difensive della squadra di Rugnaic. Torino in avvio più aggressivo ma poco concreto nonostante i tentativi a ripetizione di Caramò a spezzare l'equilibrio. La rete del vantaggio dell'Udinese da calcio d'angolo è di Touré dopo il colpo di testa di Biol. Nella ripresa i bianconeri ricominciano da quello che gli riesce meglio. Calcio d'angolo con gol. Luca di testa supera il portiere Granata per la sua 7ª rete in campionato. Torino in ginocchio ma è una sensazione cancellata dalla reazione con gol 4 minuti più tardi di Adams. L'Udinese è troppo passiva e lascia campo alla voglia di rimonta Granata che viene ripagata dalla rete di Ricci che sfrutta ancora l'errore in difesa della squadra di Rugnaic. Mancano 20 minuti ma la paura della sconfitta è più forte e il pareggio alla fine accontenta i desideri di entrambe. Sentiamo il difensore Isaac Touré. Déjà tout d'abord, diciamo che sul 2-0 pensavamo di avere il controllo della partita e poi al primo gol l'arbitro non ha fischiato e dopodiché hanno perso un po' di vantaggio sul Torino che pressava molto di più, mentre nel primo loro hanno pressato molto di più. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo alla pallacanestro, in A1 Trieste esce battuta dallo scontro del derby del Triveneto contro Rayer Venezia. Gli ospiti si sono imposti per 76-70. La Reyer Venezia ruggisce ancora, lo fa sul parquet di Trieste vincendo 76-70 dopo una gara giocata sui ritmi voluti della squadra di coach Spacchia, tenendo così ancora aperta la porta, o meglio uno spiraglio, sulle finali di Coppa Italia. Equilibrio nei primi due quarti con le due squadre che vanno all'intervallo lungo sul 35 pari. Basse percentuali al tiro, Trieste chiuderà con un 14-34 da 2 e terzo quarto che si apre con il break della Reyer 14-0 firmato da Sims e poi dai canestri di Benghele e Parks. Trieste si riavvicina con Johnson che subisce falli che lo portano in lunetta, il suo 6-6 ai liberi trascina la squadra di Christian sul -1 a inizio ultimo quarto. Sorpasso firmato poi da Utoff, ma Venezia più energie e difende meglio. Sotto di 7 Trieste perde una palla fondamentale con Valentine, saranno 12 di squadra alla fine e ritorna a -10 dopo una bomba di Moretti e i canestri di Wiltier per la Reyer. Sotto di 5 a 90 secondi dal termine Brooks fallisce due liberi per i biancorossi con il sottomano di Ennis che firma il +7 di Venezia. Valentine segna una tripla che non basta prima del tap-in finale di Parks, 18 punti per l'ex di Trieste, migliore in campo. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Mentre in A2 doppio successo delle friulane, Udine batte i bresciani della Agri Bertocchi per 82-65 e raggiunge la vetta della classifica, mentre Cividale si impone fuori casa contro Torino per 74-65. Imbattibilità casalinga mantenuta e vetta della classifica raggiunta, seppure in coabitazione. L'APU si regala un fine 2024 in testa, vincendo e convincendo in casa contro Orzinuovi. Dopo 5 minuti di equilibrio, i friulani mettono la freccia con la tripla di Alibegovic e il canestro di Xavier Johnson e non vengono più ripresi. 13-4 di parziale e partita indirizzata. La difesa morde, soffre un po' soltanto sul lungo Guariglia, ma riesce a contenere con uno sforzo collettivo la coppia Johnson-Williams, che Cividale la scorsa settimana aveva segnato 57 punti. Nella metà campo offensiva a turno c'è spazio per tutti, ma è ancora una volta Mirza Libegovic il protagonista. 37 minuti in campo, 21 punti e 5-10 dalla lunga distanza. La ripresa è a velocità di crociera, sempre doppia cifra di vantaggio che tocca quota 21 prima di un lungo quarto finale senza emozioni. 82-65, la capolista Rimini al terzo stop di fila raggiunta al primo posto in classifica. Torna a vincere anche Cividale, che a Torino fa sua una partita brutta grazie al successo 65-74. La squadra di Pilastrina ha due lunghezze di vantaggio su un gruppone al quinto posto e una sola giornata del girone d'andata da giocare con le prime quattro che avanzano nei Final Four di Coppa Italia. Per l'ennesima volta match in equilibrio e risolto in volata. Dopo un terzo quarto in difficoltà e un inizio di ultimo periodo tutt'altro che brillante in attacco, negli ultimi 5 minuti la scossa la dà la coppia rota dell'Agnello. Il playmaker segna la bomba del sorpasso 58-60 e l'ala mette due canestri di fila importantissimi dalla media distanza consecutivi. Lo stesso Rota è il miglior marcatore dei locali con 16 punti. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo alla pallavolo Serie A2 maschile, nuova vittoria per la Tinet Prata. Ieri sera in casa ha battuto Portoviro per 3-1. Ottima la partenza dei gialloblu che hanno vinto il primo set 25-15 per poi portarsi sul 2-0 con il parziale di 25-20. Terpin e compagni smarriscono un po' la bussola nel terzo set concedendo troppo agli ospiti che si impongono 22-25. I gialloblu non si scompongono e con la stessa rotazione del primo set si impongono per il 3-1. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Coach Di Pietro e tre punti che valgono la testa della classifica insieme a Brescia e Ravenna. La Pro Pordenone, associazione che promuove la salvaguardia delle tradizioni e della storia pordenonese, ha fatto collocare una targa davanti all'abitazione di Ottavio Bottecchia. Il ciclista veneto era nato a San Martino di Colle Umberto nel Trevigiano. 100 anni fa fu il primo italiano a vincere il Tour de France e riuscì a ripetere l'impresa anche l'anno successivo nel 1925. Bottecchia si trasferì con la famiglia a Pordenone in una villa in via Maniago, una laterale di via Grigoletti, all'epoca alla periferia della città. La targa ricorda che Bottecchia può essere definito pordenonese d'adozione. Non molti anni dopo il suo trasferimento a Pordenone, il ciclista andò incontro al suo tragico destino. Morì nel 1927 in circostanze mai chiarite a seguito di un incidente in bicicletta durante un allenamento a Peonis, nelle Prealpi friulane. Siamo alla rassegna stampa, il piccolo di Trieste apre con l'intervista al sindaco di Piazza e con il botta risposta come titolo. Il mio erede già scelto, il primo cittadino della città giuliana entro fine mandato, vorrebbe allargare anche la riviera di Barcola. Intervista che poi prosegue all'interno con temi del Porto Vecchio al rifacimento di Piazza Unità, i parcheggi sulle rive, partendo però dal tram ancora in rodaggio. Il sindaco di Piazza guarda al 2025 con ottimismo, un rammarico il rapporto con l'opposizione. E sempre dalla prima la fotonotizia dedicata al basket e al derby di ieri sera al Pala Trieste, manca il botto di fine anno, Trieste si arrende alla Reier il titolino. Un'altra intervista, questa dedicata ai temi della sanità con Andrea Di Lenarda, il direttore della struttura complessa patologie cardiovascolari di Assugi e del Dipartimento Specialistico Territoriale, che denuncia tanti esami inutili e liste d'attesa e l'effetto Google. La gente si informa online e pretende troppi accertamenti senza una regia clinica, la denuncia di Di Lenarda. E poi stadi Rocco e Grezzar, la Gramigna curerà ancora i manti erbosi, l'appalto del municipio per la manutenzione ordinaria dei campi assegnato fino a tutta la stagione 2026-2027. Assunzioni a scuola in palio 535 cattedre. Domani si chiudono i termini per partecipare al bando docenti, ma la UIL attacca il fabbisogno regione di 10 volte superiore. Questo è il titolo principale della prima pagina del Messaggero Veneto di Udine oggi in edicola. Sempre in materia di istruzione, il richiamo che all'Università di Udine ci sarebbero 4 candidati per il dopo Pinton, l'attuale rettore. Altro richiamo sulla destra per un'analisi di economia che vede l'industria italiana ad un bivio cruciale. Fotonotizia poi per la partita di Serie A giocata ieri al Friuli con l'Udinese che si illude ma poi spreca. Nell'occhiello si legge anche doppio vantaggio sul Toro con Touré e Luca, poi 2 reti incassate e altrettanti punti al vento. All'atto per il basket di A2 il quotidiano di Viale Palmanova titola Apu a Valanga su Orzi Nuovi, ora in vetta con Rimini. A piedi pagina un articolo dedicato al dibattito sul vino senza alcol, fa discutere il via libera alla produzione di vini dealcolizzati autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura. Ora c'è la possibilità di chiamare vino anche una bevanda con tenore alcolico inferiore a 8,5 gradi. Nella colonna di destra la notizia della morte di Gianluca Sinico, fondatore della Awa Records di Tarcento e grande appassionato di musica rock. Il piccolo di Gorizia dedica il capo cronaca all'imminente capitale della cultura, 4 assunzioni e nuovi eventi grazie al progetto Gorizia 25. Verrà finanziato con i 3 milioni stanziati dal governo, a breve la firma del protocollo d'intesa. Il comune intende assodare interpreti e lancia la voce di Go 2025 per potenziare il piano di comunicazione. E sempre dalle pagine goriziane, Davide Trevisan, classe 1986, nuovo segretario del circolo PD di Gorizia, il giovane avvocato eletto all'unanimità, il nostro circolo sarà aperto a tutti, vogliamo crescere. E poi via Carducci in crisi, chiude un'altra attività a Gorizia, spegne le insegne la storica panetteria di Manuela Ongaro, Gorizia era una città viva, mentre ora lo è un po' di meno. Dalle pagine di Monfalcone aumentano del 15% gli incidenti stradali, coinvolte 500 persone. Il bilancio della polizia locale, 30 gli automobilisti fuggiti dopo aver causato i sinistri. Calano le multe per eccesso di velocità, giro di vite contro il far west dei monopattini. E per quanto riguarda gli incidenti, è morto l'uomo di 82 anni che è stato urtato da un'auto durante una manovra del parcheggio davanti all'ospedale di Monfalcone. La conducente, come scrive il piccolo di Gorizia, non si è fermata a prestare soccorso. Il titolo principale della prima pagina dell'inserto che il Gazzettino dedica a Pordenone piange la scomparsa di Vincenzo Di Notto, l'accompagnatore dell'Under 19 di calcio, che si era sentito male sabato durante un'amichevole. A fianco nella colonna di destra la notizia da Montereale dell'escursionista colto da malore durante una camminata al castello di cui vi abbiamo dato conto. Secondo il quotidiano Veneto, oltre il 50% dei giovani è a rischio causa al consumo di alcolici. L'allarme delle aziende sanitarie per i ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Tra gli adulti, poi, 1 su 3 mette a repentaglio la salute. Poi anche nella diocesi di Concordia Pordenone ieri si è aperto l'anno giubilare. Il vescovo, spalancate il vostro cuore. È quanto scritto sotto la fotonotizia di centropagina. Nella colonna di destra si riporta una dichiarazione dichiarazione del candidato sindaco del PD Nicola Confecconi, che auspica il divieto di fumo nei parchi cittadini, mentre per lo sport a piedi pagina la notizia della vittoria nel volley del Tinet Prata e per il calcio dilettanti come il Tamai stia preparando la finalissima di San Vito contro il Codroipo. Le 7.47 e 30 secondi, siamo agli appuntamenti. Un ghiacciaio diverso, a molti sconosciuto, che non vuole scomparire e che grida speranza. È il ghiacciaio del Montasio, divenuto anche protagonista del docufilm L'unico superstite. Ideatore del progetto è il tarvisiano Stefano Floreanini, al quale si sono uniti Giuseppe Tringali e Mario Veluscek. L'anteprima, con ingresso libero, si terrà alle 21 presso il Teatro Italia di Pontebba. Sarà anche l'unica proiezione locale da qui al periodo estivo, perché il docufilm sarà in tour in vari festival documentaristici. Stefano Floreanini ci racconta di più su questo angolo, il più resiliente dell'arco alpino. Il ghiacciaio del Montasio è l'ultimo ghiacciaio del Friuli Venezia Giulia, il più basso di tutto l'arco alpino, ed è praticamente l'unico che ha deciso, tra virgolette, di non fondere con lo stesso ritmo con il quale si fanno gli altri ghiacciai di tutto l'arco alpino. Qual è l'obiettivo di questo docufilm? Prima di tutto riuscire a creare una consapevolezza individuale nei confronti dello spettatore, delle persone che vedranno questo prodotto. Più nello specifico la volontà di creare uno stimolo e uno strumento didattico, perché l'obiettivo è quello di parlare ai giovani. Quando e perché nasce l'idea di parlare di questo particolare ghiacciaio, del ghiacciaio del Montasio? L'idea nasce durante la carovana dei ghiacciai, in un momento in cui io mi sono trovato con la telecamera in mano e attorno al ghiacciaio, perché eravamo al ghiacciaio del Montasio, tutti i massimi esperti italiani di ghiaccio e di ghiacciai, Paolo Forte, che poi ha curato le musiche del documentario ed è protagonista del documentario insieme al ghiacciaio, e in quel momento lì io a livello personale ho sentito il bisogno di amplificare quello che stava succedendo in quel momento. C'è ancora la possibilità di cambiare le cose? Sì, c'è la possibilità di cambiare le cose nonostante siamo già molto tardi. Quello che evidenziano gli esperti è che comunque sia abbiamo di fronte un periodo di crisi, di sofferenza legata all'ego umano che ha voluto in questi anni sovrapporsi a quello che sono le leggi di madre natura. E quindi ci aspetterà un periodo molto molto difficile, dal quale certo ne possiamo venire fuori, però più tardi agiamo e più tardi ne potremo venire fuori. Con un intramontabile classico, lo Schiaccianoci debutta stasera alle 20.30 alla Rossetti di Trieste, l'Ukrainian Classical Ballet, il balletto ospite della stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, rinomato nel mondo per la capacità di fondere la tecnica classica a effetti tecnologici e visuali moderni. Nelle ultime due stagioni ha realizzato più di 200 spettacoli. Il tour europeo dello Schiaccianoci è stato acclamato da quasi 50.000 spettatori. Il secondo quadro dell'opera Genesi di Renato Miani, dedicato a Cividale, sarà presentato stasera alle 18.30 nella sala del Consiglio Comunale di Ruda. La tragica vicenda della principessa Romilda sarà cantata dal coro polifonico di Ruda con l'ausilio della voce recitante di Aida Tagliente, la voce di Elsa Martin e i pianisti Matteo Andri e Ferdinando Mussutto. La direzione è di Fabiana Noro. I testi sono di Angelo Floramo, che ci racconta questo progetto ambizioso che in tre quadri unisce le tre città patrimonio dell'UNESCO della regione Aquileia, Cividale e Palmanova. È una volontà di dare voce alla storia, proprio incardinandola in tre grandi architetture, che sono appunto quella di Aquileia, di Cividale e alla fine quella di Palmanova, identificando delle figure femminili, una per ogni città, da rileggere e a cui dare un nuovo significato. E come è stato trovare le parole giuste per raccontare la tragica sorte, in questo caso, di Romilda? È stato appassionante, mi sono avvalso degli studi illuminati di Maria Tore Barbina, grande studiosa friulana, che mette a setaccio le parole, direi patriarcali, piuttosto misogene, di Paolo Diacono, che la bolla con un marchio di infamia, mentre invece la sua vicenda è una vicenda di grande resistenza e di grande capacità oppositiva. La storia in virtù della tradizione che ce ne lascia Paolo Diacono, in qualche maniera la condanna, ma in realtà è stato bello identificare motivi di redenzione all'interno di questa sua vicenda umana. E poi grande protagonista sarà anche il coro polifonico di Ruda. Una eccellenza straordinaria all'interno della nostra regione, che in qualche maniera, assieme alla polifonia delle sue voci, incarna benissimo anche la multiformità delle voci e delle tradizioni che collegano le intersezioni di storia, di cultura e di civiltà di questa nostra terra. Per il quadro della Genesi su Cividale, appuntamento questa sera alle 18.30 al Palazzo Municipale, ma c'è qualche supporto multimediale che ci può aiutare nell'ascoltare almeno il primo quadro, quello su Aquileia, e poi magari quello su Cividale? Sono stati realizzati dei contributi filmati in cui, assieme ovviamente alla voce del coro di Ruda e alle meravigliose interpretazioni vocali di Elsa Martin e interpretative di Eda Taliente, c'è una mia veloce introduzione ai personaggi storici. Stasera in seconda serata su Rai 1 andrà in onda la replica di Bambini senza nome, lo speciale condotto da Lucia Goracci e dedicato ai vincitori del premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta di Trieste. E poi concerto sinfonico di fine anno organizzato dall'Associazione Culturale Rodolfo Lipizer al Kulturnice Interbratusz di Gorizia alle 20.30, che ospiterà l'Ukrainian Radio Symphony Orchestra di Kiev, diretta dal maestro Volodymyr Sheiko. Protagonisti anche il soprano Giulia Della Peruta e la violinista Ziling Guo, vincitrice del premio Lipizer 2023. Era questa l'ultima notizia per questo GR. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini, per la parte tecnica Federico Comare e Samuel Montalto, da Andrei Marusi e Armando Mucchino. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.